Io sono un ballerino di jazz. Io sono un ballerino di jazz. Sono un ballerino di jazz. Sono un ballerino di... Sono un ballerino, passo le mie ore ballando. Passo dopo passo, seguo il basso e ballo. Tengo il tempo e mi rendo strumento sull'accento di una ritmica jazz, senza stress. Sempre vito sul tema, senza problema. Mi espongo ai miei rischi, saranno applausi oppure saranno fischi. Non so, io ballo però perché sono un ballerino. Sono un ballerino di jazz. Sono un ballerino di jazz. Sono un ballerino di jazz. Sono un ballerino. Sabato arriva il mio momento, sono un ballerino e trovo gran godimento. Nelle discoteche tra la folla annoiata ed in fila davanti all'entrata. Fotomodelle come carri al macello, dividono un mar rosso con sapor di bordello. La folla che si apre al passare di una diva, di qualche telepromozione televisiva. Si richiude proprio mentre sto passando anche io. E mi ritrovo perso nell'oblio, espresso dalla musica dei DJ. E non riesco a fare neanche uno dei passi miei. Ma mi dicono è già tanto che sei riuscito a entrare. Non vorrei mica ballerino ballare. Io sono un ballerino di jazz. Sono un ballerino jazz. Sono un ballerino di jazz. Ballerino. Faccio passi di tango, di salsa, di funky, di rock e di mambo. La musica è tutto per me, è la mia vita. Per me è la metafora mia preferita. La musica è Dio, è note armonia. La musica è ordine, la musica è anarchia. Io sono un ballerino di jazz. Sono un ballerino di jazz. Sono un ballerino di jazz. Jazz, jazz, jazz. Sono un ballerino.